Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, come avete sentito nel lancio di Simone Spezia, oggi in apertura il tema europeo. Europa significa legge di bilancio, quindi la trattative sul fronte Roma-Bruxelles nello specifico, ma naturalmente tutto questo riguarda tutte le altre economie dell'Unione Europea, in particolare in queste ore Belgio ed altri, e riguarda anche naturalmente la prospettiva di un mese che si va a concludere per noi verso il referendum del mese di dicembre, del 4 dicembre, quindi di referendum costituzionale. Tutto questo in un pacchetto che naturalmente è economico e politico, molto politico. Il punto sui fatti ce lo fa Vincenzo Miglietta. Nessuna bocciatura, nulla di definitivo per il momento da Bruxelles, ma sicuramente le considerazioni della Commissione europea sulla manovra frenano il provvedimento di Palazzo Chigi. La bozza di legge di bilancio italiana 2017, scrive allora la Commissione, è a rischio di non rispetto dei requisiti del patto europeo, perché potrebbe risultare in una deviazione significativa dall'aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine. Lo stesso rischio, spiegano da Bruxelles, c'è per altri 5 paesi: Belgio, Cipro, Lituania, Slovenia, Finlandia. Per l'Italia il gap è più ampio rispetto agli impegni richiesti, aggiunge il commissario agli affari economici Moscovici, ma una parte significativa della deviazione di bilancio è associata ai costi del sisma e alla drammatica situazione che si è creata e alla gestione dei flussi migratori. Su questi due aspetti siamo pronti ad un ampio approccio. Altro capitolo, quello del debito. Le politiche espansive frenano in Italia la sua riduzione. Per Belgio e Italia vi sarà a breve un rapporto specifico, dice il vicepresidente della Commissione Dombrovskis. Infine, la crescita dell'Eurozona. La Commissione europea per la prima volta raccomanda una politica espansiva, fissando l'obiettivo del più 0,5% del PIL per l'area della moneta unica. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Grazie Vincenzo Miglietta, torneremo molto sicuramente a parlare di questi aspetti oggi nel corso di GR dell'appuntamento di Focus Economia alle 17. Altro tema che in queste ore viene sollevato sia sulla linea euro-italiana ma anche internazionale è quella degli accordi di COP22. Marrakesh, dunque, pubblicata a margine della COP22, la lettera indirizzata anche al congresso americano ammonisce sul fatto che la prosperità americano è a rischio se non riusciamo a costruire un'economia a basse emissioni. Il servizio. È entrata ormai nel vivo la conferenza sul clima di Marrakesh, COP22. Dopo i primi incontri tecnici si passa alla fase politica. Leader mondiali devono decidere cosa fare e come attuare gli obiettivi dell'accordo di Parigi, quello con cui 197 paesi hanno deciso di impegnarsi a contenere l'aumento della temperatura media globale entro i 2 gradi. I lavori si concludono venerdì, ma ancora non è chiara la posizione degli Stati Uniti. Tra i corridoi dei padiglioni della COP aleggia il timore che l'amministrazione Trump possa trovare una via d'uscita per tirarsi fuori dall'intesa. La posizione del neopresidente potrebbe essere esplicitata oggi proprio in concomitanza o in risposta all'altrettanto atteso intervento di John Kerry. Il segretario di Stato di Obama infatti interverrà nel primo pomeriggio a Marrakesh per ribadire il disegno ambizioso della presidenza Obama, che a Marrakesh è arrivata tra i primi sponsor di Parigi. Quell'accordo è irreversibile, ribadisce intanto con forza l'Unione Europea, che alla conferenza partecipa con una folta delegazione composta da membri della Commissione, del Parlamento e del Comitato delle Regioni, presenti commissari al clima, ambiente, cooperazione internazionale, 12 eurodeputati incaricati di discutere i punti chiave dei negoziati. A Marrakesh lavoriamo per l'implementazione dell'accordo di Parigi, da lì non si torna indietro, dichiara Giovanni Lavia, capo delegazione del Parlamento europeo e presidente della Commissione Ambiente, mentre il presidente francese Hollande dichiara: voglio credere che Trump non prenderà le decisioni annunciate in campagna presidenziale, sarebbe il primo ad assumersene tutti i rischi, perché le prime vittime sarebbero le aziende USA. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E su questo naturalmente staremo a sentire e a vedere. Grazie, è tutto per questo appuntamento. Adesso naturalmente tutti convocati, Giovanni Capuano è già pronto in studio, noi ci risentiamo domani alla stessa ora. Europa 24, collaborazione con Euronet Plus.